Machiavello, cervello mio perso. Dentro, dentro un mare di nulla immenso. Perso, perduto tuo fumo. Paradiso, perdendo te, disperso. Vedi l'anima nell'immenso, accogliermi ogni boccata di fumo losco. Tosca, che rintocca, che intono melodia losca. Fumo su fumo, toscano e brandy, malinconico. Verso, gomito su gomito, pensando a te stella persa mia, vola via dalle pagine cospite scarabocchio, di nomi di farfalle rocche, giocano col mio cuore, signore Sigma, il mio nome sovra, splende ore sole. Cara Margherita, di tamo e non tamo che sul mio piccolo pianeta giaci, sgualciti dai lacci, di stracci, di ricordi vesti, vestiti lerci, svestiti e affannati di pianti, tra petali tuoi venti, incerti al fuoco di bufera dei tuoi orgasmi, che il tuo passi veloce per paura di solitudine, col tuo ricordo fantasma di fratelli spiccassi volo fino a qua, ove solo il tuo bel profumo conosce casa e regalità. O mia piccola rockstar, che il tuo soul, il tuo flow è la musica della tua anima. O mia piccola rockstar, che il tuo soul, il tuo flow è la musica della tua anima. O mia piccola rockstar. Torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna, torna,